Larga. Troppa retorica xenofoba, il monito di Napolitano mentre la Camera approva il disegno di legge sicurezza. E l'Italia consegna alla Libia 3 motovedette, da domani il pattugliamento congiunto, serve ogni mezzo possibile, dice Maroni, contro il traffico di clandestini. Operai in piazza a Termini Imerese, preoccupazioni per gli stabilimenti Fiat, la Germania oggi valuta strade alternative al lingotto. Cristiani e musulmani convivano nel reciproco rispetto, da Nazareth il Papa rinnova l'appello alla pace. Nessun risarcimento vale la morte di nostro figlio. I genitori di Abba, il ragazzo ucciso per aver rubato un pacco di biscotti, scrivono ai giudici di Milano. Il libro in mostra, Torino rinnova l'appuntamento con la cultura. Gerex Alarge, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. Approvato alla Camera il decreto sicurezza, il governo dunque va avanti nonostante le molte discussioni, le critiche di questi giorni. L'ultimo è il capo dello Stato che parla di retorica xenofoba e domani sarà una giornata importante. Sì, perché domani, 15 maggio, entrerà in vigore l'accordo per il pattugliamento congiunto con Tripoli delle coste libiche, che è due temi questi che si intrecciano strettamente. Oggi è stato il ministro dell'Interno Maroni a consegnare le prime motovedette che l'Italia darà in dotazione alla Libia e naturalmente è tornato sull'argomento. Allora facciamo il punto con Elisabetta Fiorito. Sì, nel giorno dell'approvazione del disegno di legge sicurezza qui alla Camera arriva il monito del capo dello Stato Giorgio Napolitano per il Presidente della Repubblica. Si diffonde una retorica pubblica che non esita anche in Italia ad incorporare accenti di intolleranza e xenofobia. Secondo Napolitano, povertà e disuguaglianza sono strettamente connesse, quindi le misure rivolte a ridurre la povertà e quelle contro l'esclusione sociale devono andare di pari passo. Solo in questo modo si può evitare che coloro che si trovano in fondo alla scala sociale rimangano confinati in quella posizione. Ad intervenire sulle parole di Napolitano il leader della Lega Umberto Bossi, che risponde: io ascolto la gente. Per il ministro degli interni Roberto Maroni, la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha pregiudizi. Sentiamo Maroni. Nei prossimi giorni, con l'approvazione definitiva del disegno di legge sulla sicurezza, ne avremo altri, ma gli strumenti che polizia, carabinieri, Guardia di Finanza, le forze dell'ordine hanno in Italia, pur importanti, non sono sufficienti, non possono essere sufficienti se manca quella collaborazione internazionale che è un mezzo indispensabile per contrastare il racket del traffico di esseri umani. Il premier Silvio Berlusconi, presente qui in aula alla Camera, non ha ancora visto le dichiarazioni di Napolitano, mentre Montecitorio si prepara tra pochissimo a dare il via libera al disegno di legge sicurezza. E per il momento qui dalla Camera è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. E sentivamo nelle parole del ministro Maroni parlare della collaborazione tra Italia e Libia, che è già iniziata nei giorni scorsi, quando i militari libici hanno vissuto fianco a fianco con quelli italiani durante l'addestramento alla scuola della Marina Militare di Gaeta. E noi questi giorni ce li siamo fatti raccontare l'intervista a un ufficiale della Guardia di Finanza, la sentiremo più avanti alle 13.30. Intanto, una delle critiche arrivate alla svolta italiana nella politica del contrasto all'arrivo di migranti dal mare è quella dura dell'Europa. Sergio Nava ha intervistato il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Thomas Hammerberg. I'm worried about the... Mi preoccupa l'attuale politica dei rimpatri portata avanti dall'Italia, perché questa politica significa che gli aspiranti richiedenti asilo non hanno possibilità di inoltrare le richieste necessarie e questo si configura come una violazione del diritto d'asilo, che è uno dei più importanti diritti umani. Secondo lei la Libia garantisce standard di trattamento adeguati per i richiedenti asilo? No. La Libia non ha ratificato la Convenzione dell'ONU sui rifugiati e inoltre ha problemi relativi al rispetto dei diritti umani sul proprio territorio. Commissario Hammerberg, cosa dovrebbe fare allora l'Italia secondo lei? L'Italia deve fermare questa nuova politica di rimpatri, tornando alle procedure precedenti, alla collaborazione con l'Agenzia ONU per i rifugiati. È anche cruciale una risposta seria da parte di Bruxelles, sia alle richieste di Roma che a quelle di altri paesi del Mediterraneo. è un problema europeo. Il governo italiano ha ragione ad accusare le insufficienti risposte da parte del resto dell'Unione nel coordinamento delle politiche comunitarie. Proprio l'Unione Europea finora ha mantenuto un profilo abbastanza basso nella vicenda, non è forse stata un po' assente? Penso che Bruxelles debba fare autocritica. Quando Frattini era responsabile del portafoglio immigrazione, iniziò un processo di coordinamento di queste politiche, un processo sfortunatamente molto lento. Ora occorre accelerarlo, anche con incontri ad alto livello, per garantire standard comuni in Europa. Bruxelles deve rispondere alle richieste dei paesi mediterranei. Brussels have to respond to the request from the Mediterranean countries. Ebbene, a proposito di immigrazione ed economia, una delle figure di cui si parla più spesso è quella lavorative, delle colf e delle badanti. C'è un dato dell'INPS che riguarda i primi 3 mesi di quest'anno. Sono state iscritte 100.000 colf o badanti in più, con un recupero di contributi pari a 25 milioni, che su base annua si stima arrivino a 100 milioni. E le stime dicono che in Italia ci sono 1,5 milioni di colf. Fino ad ora l'INPS ne aveva iscritte 600, con queste nuove arriva a 700. Ucciso per aver rubato una scatola di biscotti. Oggi a Milano nuova udienza per la morte del giovane italiano di colore ucciso il 14 settembre scorso, Abdul Salam Gweber, detto Abba, e dai genitori sono arrivate parole dure. Nessun pentimento e nessun risarcimento, invocano una pena giusta per la morte assurda del figlio. Arrivano in tribunale con una lettera in mano i genitori di Abba, il giovane italiano originario del Burkina Faso, ucciso l'anno scorso per il furto di un pacco di biscotti. Perdono avevano chiesto nell'ultima udienza padre e figlio, titolari del bar di Milano, accusati di omicidio volontario per quell'aggressione fatale. Massane Ghibre e Aminata Barra mettono nero su bianco che non possono e non vogliono perdonare nessuno, e al giudice per l'udienza preliminare Nicola Clivio chiedono pene giuste per chi ha distrutto la vita di un ragazzo e quella della loro famiglia. Fino ad allora rendono esplicito i genitori di Abba: non accetteremo soldi, nessuna somma vale la morte di nostro figlio, noi vogliamo che sia lei, scrivono al giudice, a stabilire la giusta pena e il giusto risarcimento. Per assicurare un risarcimento ai genitori di Abba, Fausto e Daniele Cristofoli, padre e figlio imputati per l'omicidio, stanno cercando di vendere la loro casa, e per questo il processo, con le richieste di condanna del PM, è stato rinviato al 16 luglio. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore. E andiamo in Sicilia, a Termini Imerese, dove in attesa di una decisione per quanto riguarda le trattative sulla Fiat, la fusione con la Opel, ci sono nuove proteste da parte dei lavoratori allo stabilimento Fiat. Alcune centinaia hanno indetto una manifestazione. Sentiamo. La notizia secondo cui nel piano industriale presentato dalla Fiat ai tedeschi per acquisire la Opel si prevederebbe la chiusura dello stabilimento di Termini Imerese ha provocato oggi un nuovo e non programmato sciopero nella fabbrica siciliana. I lavoratori dello stabilimento hanno scioperato stamani dalle 7 alle 8.30 e dalle 9.30 alle 11 e manifestato davanti ai cancelli. Spinto dalla preoccupazione sul futuro dello stabilimento a pochi chilometri da Palermo, infatti, il Consiglio di Fabbrica ha proclamato l'astensione dal lavoro. Alla stessa decisione sono giunti anche i lavoratori delle fabbriche dell'indotto che operano nella zona, che invece resteranno fermi per tutta la giornata. E così tutti insieme, in oltre 1.700, sono scesi a protestare. La presenza delle numerose tute blu ha rallentato il traffico della statale che passa proprio davanti ai cancelli della fabbrica. I lavoratori di Termini Imerese chiedono garanzie sul loro futuro occupazionale. Secondo la FIOM CGIL siciliana, l'eventuale chiusura dello stabilimento di Termini Imerese comporterebbe prezzi sociali inammissibili ed è per questo che i lavoratori lotteranno con tutte le loro forze contro questa ipotesi e chiedono intanto un intervento urgente dei governi regionale e nazionale. Gian Piero Casagni, GR24, Il Sole 24 Ore, Palermo. E questa volta la Germania non aspetta invece Marchionne. Oggi invece ci sarà un incontro per verificare strade alternative a Fiat per il futuro di Opel. Insomma, che succede, Beda Romano? Sì, buongiorno. Il governo ha in programma oggi una riunione ristretta tra alcuni ministri, per cercare di capire come potrebbero essere le prossime settimane. Evidentemente il governo vuole tentare di trovare una soluzione per Opel entro la fine del mese, ma se questo non fosse possibile, è a rischio proprio la salvaguardia della società, che è una filiale di General Motors. E quindi il governo sta cercando di trovare un piano B. nel caso in cui non si trovasse un acquirente. Le ipotesi sono varie, la stampa tedesca questa mattina parla di temporanea nazionalizzazione di Opel, questa ipotesi è stata smentita dal governo, certamente però il governo vuole avere o denaro a disposizione in modo tale da dare queste garanzie direttamente a Opel scaduto il termine di fine mese, oppure trovare altre soluzioni come un'amministrazione controllata. Mentre il governo sta aspettando il piano del concorrente di Fiat. Fiat ha presentato il piano di fusione con Opel, Magna, il produttore di componenti per auto austro-canadese, deve presentare il proprio piano entro il 20 maggio. Ieri però c'è stato un incontro a Francoforte tra i sindacati di diversi paesi proprio per valutare la situazione riguardo alla fusione tra Fiat e Opel. E sono emerse anche alcune notizie. Sì, i sindacati presenti all'incontro a Francoforte erano fondamentalmente tedeschi e italiani, si sono scambiati informazioni e soprattutto hanno preso una posizione comune, hanno spiegato che sono contrari naturalmente alla fusione con Fiat, hanno paura di sovrapposizioni e hanno paura di chiusure di fabbriche e di perdite di posti di lavoro. La mia impressione è che i sindacati tedeschi e italiani si sentano in difficoltà. Si sentono in difficoltà perché hanno paura che a un certo punto le parti in campo, le case automobilistiche coinvolte, ma anche i governi coinvolti, a un certo punto possano mettere in concorrenza i sindacati tra di loro, trovando delle soluzioni sulle fabbriche da chiudere e quelle da salvare. Ed ecco perché ieri hanno tenuto questa riunione per dire ufficialmente che sono uniti in questo frangente e nelle trattative di fusione tra Opel e Fiat. Grazie a Beda Romano. E a livello europeo oggi le stime intanto del bollettino della BCE. La Banca Centrale Europea prevede ulteriormente al ribasso le aspettative di crescita per il 2009. Si attende che il PIL si contragga del 3,4%, un nuovo ridimensionamento di 1,7 punti percentuali rispetto alle ultime previsioni. Tra le previsioni per i prossimi mesi anche l'ulteriore deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro. E noi a questo proposito parliamo spesso di chi ha il posto di lavoro a rischio, di chi sta perdendo il lavoro con questa crisi economica, ma come vive, qual è l'umore invece di chi si sta per affacciare proprio ora sul mercato del lavoro? I giovani, i giovanissimi. A Milano è in corso Sinesis, un'occasione in cui studenti e aziende si incontrano e, visto che era proprio sotto la sede del gruppo Sole 24 Ore, dove anche noi ci troviamo, siamo andati a curiosare, a chiedere quali sono le speranze di questi giovani ragazzi. Ci è andata Diana Fracchia, sentiamo. Tu sei qui perché oggi? Per distribuire un po' di curriculum, sono neolaureato e cercare di trovare un'occupazione o degli sbocchi. Quanto conta ancora il curriculum? Spero tanto, anche perché il momento non è proprio dei più favorevoli. Io sono qui perché cerco un posto un po' stabile, perché ultimamente sto cambiando molti lavori e quindi pur essendo neolaureata desidero trovare un lavoro che mi piaccia fino in fondo. Neolaureata in? Scienze bancarie. Cercavo anche io qualche opportunità, magari anche all'estero. Sono abituato a guardare in largo, con Erasmus alle spalle, cercavo un'opportunità di stage, magari non focalizzato solo a Milano e contesto, ma guardare anche un po' oltre, insomma. Il tuo sogno sarebbe trovare in quale ambito? Ma io studio statistica, qualunque cosa concernente il marketing, cose di questo tipo. Tu sei qui per... Mi sono appena laureata, quindi sto cercando lavoro e se qualche azienda ha qualche proposta, insomma, anche per uno stage, così tanto per iniziare. E adesso spereresti di trovare in quale settore? Ma al momento in qualcosa di attinente, anche se a me piace molto marketing. Però per adesso, siccome vedo che c'è crisi, che non riesco, non sono riuscita a trovare lavoro facilmente da novembre adesso, per adesso va bene qualsiasi settore, l'importante è iniziare. E queste dunque le speranze dei ragazzi che un lavoro lo stanno cercando. Nel frattempo è arrivata una ultima ora dalla Camera, approvazione dunque ufficiale del disegno di legge in materia di sicurezza. Il testo passa ora al Senato, i voti a favore 297, 255 i contrari, 3 gli astenuti. 13 e 19 minuti a GR24 Extra Large. E nella prima parte siamo partiti dalle parole del Presidente della Repubblica Napolitano, il monito: troppa retorica xenofoba, ha detto a proposito dei temi dell'immigrazione, temi che incrociano anche il disegno di legge sicurezza votato oggi e approvato alla Camera. E poi nelle stesse ore l'Italia consegna alla Libia 3 motovedette frutto di una collaborazione per il pattugliamento delle coste. Siamo stati anche in Sicilia, a Termini Imerese, dove ci sono le preoccupazioni degli operai per la possibile chiusura dello stabilimento. Adesso invece andiamo alla Fiera del Libro di Torino. Eh sì, perché questa mattina si è inaugurata la Fiera del Libro e abbiamo inaugurato anche noi i nostri studi nei padiglioni della Fiera, dove c'è ora Alessandra Tedesco. Buongiorno, sì, l'inaugurazione diciamo istituzionale questa mattina è avvenuta alla presenza del Presidente della Camera Gianfranco Fini, che dopo un breve discorso ha naturalmente visitato i padiglioni. Fini ha sottolineato che l'educazione alla lettura e alla cultura sono un antidoto per i tempi bui e rappresentano una garanzia per i tempi migliori. Ma l'inaugurazione letteraria, per così dire, è toccata a Umberto Eco, un nome che non ha certo bisogno di presentazioni. Insieme allo scrittore e sceneggiatore francese Jean-Claude Carrière ha appena concluso una conversazione intitolata Non sperate di liberarvi dei libri, che è poi il titolo anche del loro libro appena uscito per Bompiani. Insomma, la domanda era: il computer ucciderà i libri? Gli ebook sostituiranno i libri di carta? La risposta sottintesa è no. Ecco, in questo libro scrive infatti: provate a passare 2 ore al computer a leggere un romanzo, i vostri occhi diventeranno palle da tennis. Però naturalmente può essere utile dal punto di vista professionale, il piacere è tutt'altra cosa. E allora sentite qual è per Umberto Eco il fascino del libro. Fresche le mie parole nella sera, ti sian come il fruscio che fan le foglie nel gelso della man che le raccoglie. Parenzi, D'Annunzio, ecco. Sinché un oggetto ti darà questa sensazione, che sia fatto con la carta di stracci come nell'antichità, con la carta di legno come oggi, sinché ti darà quella sensazione di poterlo percorrere usando anche le dita, direi avremo il libro. Ecco, ripeto, all'ebook io vorrei che si salvasse la possibilità di bagnarsi il dito, che è fondamentale, in fondo è anche una soddisfazione orale che risale all'infanzia. Ecco, forse leggiamo libri perché non abbiamo più il ciuccio, ecco. Queste le parole di Umberto Eco, che poi ha aggiunto: la libreria non è quella dei libri che abbiamo letto, ma è quella dei libri che potremmo leggere. Alessandra, torniamo ancora un attimo a noi, quali sono le iniziative che la radio fa collegate a questa edizione della Fiera del Libro? Beh, sono tantissime. Innanzitutto una serie di trasmissioni in diretta, alle 14 inizierà a Tempo di Sport, in diretta appunto qui dagli studi di Radio 24 alla Fiera di Torino, all'Ingotto di Torino. Ma poi ricordiamo anche l'iniziativa Io in un libro. Abbiamo chiesto nei mesi scorsi ai nostri ascoltatori di indicarci in quale libro il loro io si è identificato maggiormente, quale personaggio della letteratura trovano più somigliante a sé. Bene, possono venire a riferire le loro personalissime recensioni qui negli studi di Radio 24 all'Ingotto della Fiera di Torino. Noi lo ricordiamo, siamo nella Padiglione 2, corridoio H, accanto alla Sala Blu. Potete registrare le vostre recensioni e poi le potrete ascoltare prossimamente su Radio 24. Grazie ad Alessandra Tedesco da Torino, dove si è inaugurata oggi, con l'invito alla lettura del Presidente della Camera Fini, la Fiera del Libro di Torino. Andiamo all'Aquila, si comincia un'altra fase di ricostruzione in Abruzzo. Da questa mattina la Protezione Civile, con i tecnici dell'Agenzia del Territorio, sta acquisendo i 20 terreni su cui saranno costruite le strutture antisismiche annunciate nei giorni scorsi. Uno dei primi procedimenti è in corso proprio in questi minuti a Coppito, a 2 passi dalla caserma della Guardia di Finanza. In quest'area sorgeranno 4 moduli abitativi in grado di ospitare almeno 80 appartamenti, accoglieranno in totale circa 350 persone. E intanto a Roma sono riuniti i costruttori dell'ANCE, gli stati generali dell'edilizia. Andrea Viali, buongiorno. È emersa qualche notizia? Alessio, imprese e sindacati del settore delle costruzioni chiedono insieme al governo l'apertura di un tavolo tecnico per definire interventi a favore del comparto, e di questo stanno parlando qui alla Fiera di Roma oggi negli stati generali delle costruzioni. A causa delle crisi dell'economia nell'edilizia, 250.000 lavoratori corrono il rischio di perdere il posto, ha avvertito il presidente dell'ANCE Buzzetti, secondo il quale occorrono interventi coerenti a partire dalla semplificazione di norme e procedure fino a un programma di opere piccole e medie più ampio di quello già annunciato dal governo, ma serve anche il varo del piano per l'housing sociale e per il rilancio dell'edilizia. Il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia in un videomessaggio ha invitato a far partire rapidamente i cantieri per ridare tanto al settore dell'edilizia. Il segretario della CGIL Epifani, anche lui in un videomessaggio, ha chiesto invece di mettere in campo investimenti che si possono realizzare in breve tempo, rapidamente cantierabili. Per il governo, dal palco degli Stati Generali delle Costruzioni, è intervenuto invece il ministro del Welfare Sacconi, che si è detto favorevole all'apertura di un tavolo tecnico chiesto appunto da imprese e sindacati, ma Sacconi è stato anche contestato da una parte della platea quando ha criticato il testo unico sulla sicurezza sul lavoro varato dal governo Prodi, che invece l'attuale governo sappiamo che ha deciso di modificare. Invito chi fischia a risparmiare ossigeno per il cervello, noi abbiamo bisogno di tutta la nostra intelligenza per rendere effettive le disposizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è stata la replica stizzita di Sacconi che ha alimentato così nuove contestazioni. Per il momento dalla Fiera di Roma è tutto. E grazie Andrea Viali. Il viaggio del Papa: cristiani e musulmani respingano il potere distruttivo dell'odio e del pregiudizio, edifichino ponti e trovino modi per una pacifica convivenza. Queste le parole questa mattina del Pontefice. La tappa di oggi, di questa mattina, è stata la mezza a Nazareth, città quasi interamente araba, dove sono registrate tensioni tra musulmani e cristiani. Nel pomeriggio poi il Papa incontrerà il premier israeliano Netanyahu. E ora invece andiamo a Napoli, dove è avvenuta una brutta avventura ai danni del capitano della nazionale di calcio. Una splendida villa immersa nel verde e visibile solo dal mare, in ristrutturazione da un paio d'anni e ormai quasi ultimata. È la villa di Posillipo di Fabio Cannavaro, sequestrata per abusi edilizi nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli. Il calciatore napoletano, che dalla prossima stagione tornerà a giocare nella Juventus, risulta indagato insieme ad altre 4 persone. Il cantiere è fermo, i rilievi dei magistrati riguarderebbero alcune difformità nei lavori, in particolare le dimensioni della piscina, il muro che nasconde la costruzione e alcune recinzioni che sarebbero state realizzate abusivamente. La zona è considerata di alto pregio ambientale con vincoli paesaggistici, tuttavia i lavori risultano autorizzati dalla sovrintendenza e dal comune. Ora i manufatti abusivi potrebbero essere demoliti e così, dopo aver visto sfumare il desiderio di chiudere la carriera nel Napoli, Cannavaro rischia di perdere anche la villa dei suoi sogni. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E siamo al Giro d'Italia, oggi sesta tappa, Bressanone, Meierhofen in Zillertal. Dario Ceccarelli, stiamo sconfineranno in Austria tra poco. Sì, dovrebbero essere quasi in Austria, anzi credo che lo siano ci sono già. Sì, sì, sì. Però parliamo un po' invece della tappa di ieri, che è stata una giornata abbastanza intensa. Ieri è successo un po' di tutto, nel senso che intanto è venuta fuori la verità su Armstrong, che non sta proprio benissimo, è rimasto 3 minuti dietro, insomma si è capito che non è ancora nella forma migliore per poter affrontare questo giro per poterlo vincere. Magari nella cronometro farà qualche cosa di buono, però no, anche se è il grande Armstrong, si è visto che insomma non può reggere ad altissimi livelli. Di Luca ha vinto la maglia rosa, ma quello che è venuto fuori è che c'è un gruppo nutrito di stranieri, quasi un giro multietnico, visto che la parola va di moda, diciamo. Menchov, che è questo russo, tra l'altro, che vive in Spagna, però, che è fortissimo, bravo a montagna, bravo a cronometro, fondista, per cui alla lunga... Insomma, i russi ce l'hanno una tradizione, esatto. Tra l'altro. Poi abbiamo questo svedese, Lovskist, che era la maglia rosa prima di Danilo. Un nome quasi impronunciabile. Esatto, io ci ho provato, ma abbiate pazienza. E comunque è uno che... 25enne, molto solido, bravo. In più abbiamo Leigh Palmer, che è il compagno di Armstrong, un americano anche lui, che è bravissimo a cronometro, bravo anche in montagna. E insomma, è Carlos Sastre, che è uno spagnolo che ha già vinto il Tour de France dell'anno scorso e che quest'anno viene per vincere. Per cui è una truppa che fa paura. Ecco. Adesso però faccio quello che difende il campanile, perché ci sono gli italiani, ieri si sono basso, è andato su, però oggi c'è qualche polemica perché ha detto ero solo a tirare. E effettivamente l'hanno lasciato un po'. Siccome basso, sanno tutti che in questo momento è uno dei più dotati in montagna e dei più forti, gli altri italiani hanno preferito, gli altri italiani, gli altri, insomma, hanno preferito che se la, vai avanti tu e tira tu, che a noi viene da ridere, non tantissimo, perché questo andava fortissimo e quindi li ha messi un po' in difficoltà. Comunque Basso è la vera unica certezza per il momento che abbiamo, oltre a Di Luca, che però è meno dotato per un giro così dispendioso. E poi la delusione è stato Cunego, che già alla prima salita importante ha perso quasi 3 minuti, e questo dice una cosa, che ormai non è un corridore da corsa a tappe, ma più da giornata, da classica, da corsa di un giorno. Dario, 300.000 spettatori in più rispetto all'anno scorso in TV per questo giro, è un po' quell'effetto montagna di cui ci parlavi ieri? Ma ci sono tante cose, l'effetto montagna sicuramente, perché le montagne sono arrivate subito e questo ha attirato l'attenzione di tutti, perché quando il giro va in montagna sale tutto, sale anche l'attenzione. Di sicuro c'è anche il fatto che c'è tutta questa battaglia di un giro del centenario, il giro del secolo, come amano definirlo quelli della Gazzetta, e che quindi attira molta attenzione, soprattutto all'estero, perché Lance Armstrong avrà tutti i difetti che sappiamo, è vecchio, ha la clavicola che è ancora scricchiolante, eccetera, però ha attirato tutte le televisioni. È sempre un grande personaggio. Esatto, e quindi ci sono inviati del New York Times, di tutte le più grandi emittenti d'Europa e del mondo. 13:35 minuti 40 secondi, riprendiamo con GR24 Extra Large. Troppa retorica xenofoba, il monito di Napolitano, mentre la Camera approva il disegno di legge sicurezza. E l'Italia consegna alla Libia 3 motovedette, da domani il pattugliamento congiunto. Serve ogni mezzo possibile, dice Maroni, contro il traffico di clandestini. Poco fa ha parlato anche il premier Berlusconi, ve lo faremo sentire tra poco. Operai in piazza a Termini Imerese, la preoccupazione per la chiusura dello stabilimento Fiat. La Germania intanto valuta strade alternative al lingotto. Cristiani e musulmani convivano nel reciproco rispetto. Da Nazareth il Papa rinnova l'appello alla pace. Nessun risarcimento vale la morte di nostro figlio. I genitori di Abba, ragazzo ucciso per aver rubato un pacco di biscotti, scrivono così ai giudici di Milano. Il libro in mostra a Torino rinnova l'appuntamento con la cultura. L'avevamo anticipato, la consegna di oggi arriva dopo mesi di collaborazione tra Italia e Libia per definire l'attività prevista negli accordi bilaterali. Nelle scorse 3 settimane una quarantina di militari libici sono stati addestrati ad utilizzare le nostre unità navali. Come racconta al microfono di Maria Luisa Pezzali il colonnello Antonino Iraso, capo ufficio navale della Guardia di Finanza. Circa 3 settimane fa i 42 militari della Marina Militare Libica sono arrivati in Italia. Sono stati alloggiati presso la nostra scuola nautica e hanno iniziato l'attività addestrativa, che si è trasformata in un'attività conoscitiva, perché si tratta di personale già qualificato, altamente qualificato, della Marina Libica, che conosce perfettamente l'arte marinaresca. Quindi è stata una conoscenza approfondita di unità navali che loro non hanno in dotazione. Anche questo ci ha permesso in brevissimo tempo di metterli in grado di operare con le nostre unità navali. Ecco, nell'ambito di questa convivenza, collaborazione, ci può raccontare qualche aneddoto, insomma, che cosa è venuto fuori da questo confronto diretto con i colleghi? Ma al di là delle incomprensioni legate alla conoscenza della lingua araba, ma tutti i componenti della missione libica conoscono l'inglese e anche l'italiano in buona parte. Il tutto è stato superato grazie anche alla comunanza della conoscenza della vita marinaresca e dell'attività operativa che si svolge in mare. Non ci sono stati particolari problemi, anche perché abbiamo fatto moltissima attenzione a rispettare quelle che sono le loro abitudini religiose e sociali. E hanno fatto alcune determinate richieste, come un luogo di preghiera comune, hanno fatto la richiesta di avere determinati cibi. Il catering che abbiamo organizzato per il loro vitto ha tenuto rigorosamente conto delle loro usanze religiose e tutto si è svolto nella massima collaborazione e, oserei dire, fratellanza. I protocolli di contrasto all'immigrazione, soprattutto applicati poi all'utilizzo dei mezzi, i nostri rispetto ai loro e viceversa, sono diversi? Trattandosi di attività di perlustrazione e di controllo in mare, gli schemi sono gli stessi a livello internazionale, le procedure sono le stesse, sono ormai universalmente riconosciute. e comunque quello che sarà la pianificazione dell'attività operativa sarà coordinata in una serie di incontri che faremo sia a Lampedusa con gli esperti libici che saranno a quella sede dai prossimi giorni e dai nostri militari che già sono a Zuara e a Tripoli per costituire la sala operativa che coordinerà l'attività in mare sia delle unità navali libiche con gli osservatori italiani a bordo e sia delle unità navali italiane con a bordo gli osservatori libici. Sono colleghi questi che capiterà ai vostri di incontrare in mare? No, sicuramente ci incontreremo in acque internazionali dove non c'è nessun problema di diritto nel poter cooperare insieme. Poi per quanto riguarda le acque territoriali invece ognuno controllerà le acque territoriali della propria nazione. E così dunque per ora solo in una caserma è cominciato il lavoro congiunto, lo avete sentito, tra militari italiani e militari libici. Da domani entrerà invece in vigore ufficialmente l'accordo e dunque il controllo vero in mare. Nel frattempo, mentre eravamo in onda, è intervenuto però sulla questione il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, lo ha intervistato Elisabetta Fiorito, ecco l'intervista. Presidente, allora è soddisfatto di questo voto? Sì, sì, mi sembra di sì, è stata una legge lungamente approfondita, credo che sia assolutamente necessaria e credo che dobbiamo affrontare questo fenomeno dell'immigrazione con tutto il buon senso necessario, con un senso di giustizia. Il Capo dello Stato parla oggi però, attenzione alla xenofobia. Noi siamo contro la xenofobia da sempre e quindi è chiaro che da parte nostra c'è sempre stato un atteggiamento di netto contrasto nei confronti di ogni espressione di xenofobia. Senta, Bossi dice però invece noi ascoltiamo la gente, ascoltiamo i bisogni della gente piuttosto che ha risposto al Capo dello Stato così. Ma guardi, c'è una distinzione netta da fare tra ciò che abbiamo in mente noi e ciò che invece ha in mente e ha fatto la sinistra. La sinistra è per un paese che tenga le sue porte spalancate nei confronti di chiunque che provenga da qualunque parte. E alla CEI che cosa risponde, Presidente? Perché ci sono state delle critiche da parte della Chiesa. No, io non ho conoscenza di queste critiche. Ho parlato più volte con responsabili della Conferenza Episcopale. E tutte le volte che ho parlato illustrando i nostri provvedimenti ho sempre trovato una accoglienza positiva da parte loro. Anche sul respingimento, Presidente? Sì, perché i respingimenti sono quello che fanno altri paesi, tutti gli altri paesi, sono nell'ambito delle direttive europee e sono necessari per quella deterrenza senza la quale non si riesce a superare l'impasse che era stato costituito precedentemente dalla sinistra. Non crede a queste critiche che praticamente l'avete rimandato in un lager? Gli articoli anche che sono usciti sui giornali di questi disperati. Non mi sembra che ci sia in giro una volontà di critica assolutamente lontana anche dal sentire della gente. Tutti i dati che ho io dicono che la grandissima maggioranza degli italiani, oltre il, mi sembra che sia il 76 qualcosa per cento, condivide la posizione e l'operato del governo. Tutto il resto fa parte dell'opposizione. E lasciamo la politica. Mentre la Formula 1 è alle prese coi guai seri, ne abbiamo parlato anche ieri, dopo che sempre più costruttori vogliono abbandonarla per via dei nuovi regolamenti, c'è chi invece alla Formula 1 vorrebbe arrivare presto. Ed è la città di Roma, che oggi ha ufficialmente presentato il progetto per il suo nuovo Gran Premio. C'era Paola Cavadi. Buongiorno Paola. Sì, buongiorno. Roma fa un nuovo passo avanti verso l'ufficializzazione della sua candidatura per il Mondiale di Formula 1 del 2012. Il sindaco Gianni Alemanno ha presentato oggi in Campidoglio lo studio di prefattibilità del primo Gran Premio della capitale. La trattativa con i vertici della Formula 1, Ecclestone in testa, vanno avanti e c'è da sperare. Roma compete con capitali come Parigi, Mosca, Londra e Pechino. Il circuito eventuale sarà lungo poco più di 4,5 km. Avrà un tempo di percorrenza di un minuto minuto e 34 secondi, una velocità media stimata di 177 km orari e ben 3 punti di sorpasso. Quindi un circuito in piena regola che si snoderà tra l'altro in un contesto urbano spettacolare, il futuristico quartiere dell'Eur, tra il Palazzo dei Congressi e la Chiesa di San Pietro e Paolo. Un evento sportivo che avrebbe in ogni caso una ricaduta economica di oltre 1 miliardo di euro e creerebbe quasi 100.000 posti di lavoro, si calcola. Non posso pensare a un Gran Premio senza la Ferrari, ha detto il sindaco alemanno a proposito del minacciato ritiro delle rosse di Maranello dal prossimo mondiale. Da qui al 2012, ha aggiunto il sindaco, c'è il tempo per risolvere ogni problema. Confido di vedere presto le Ferrari correre a Roma. E dal Campidoglio è tutto, a voi studio. Grazie Paola Cavadi. Chissà cosa ne penseranno all'estero di questa nuova iniziativa romana. Di certo sui giornali stranieri andiamo subito. Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Ci porti un po' a nord oggi? Sì, è una bellissima prima pagina dell'International Herald Tribune, che fa un po' quello che forse in futuro i quotidiani faranno sempre più spesso, dare delle notizie che non sono strettamente legate alla cronaca, sono una storia che però si legge lo stesso volentieri. In questo caso si parla di Norvegia. La Norvegia, sappiamo, è uno dei principali produttori di petrolio non del Medio Oriente, ha accumulato grandissime risorse di denaro anche negli ultimi anni e ora le statistiche dicono che sia i norvegesi singolarmente sia il governo norvegese ha risparmiato tantissimi soldi, si sono creati un vero e proprio tesoretto. Il PIL pro capite della Norvegia è comunque il secondo in Europa, di 52.000 dollari all'anno, soltanto il Lussemburgo, quello del Lussemburgo è più alto, e adesso si godono un po'. Infatti c'è una foto di un signore che da una specie di distesa di ghiaccio guarda il mare, adesso si godono questo scenario particolarmente favorevole dovuto a scelte molto lungimiranti rispetto naturalmente a quello che abbiamo fatto noi cicale del continente. Giulia, uno sguardo anche alla Cina. Sì, in Cina invece c'è questa azienda che in realtà è indiana con una joint venture in Cina e hanno creato questo cheaper flu drug, cioè un farmaco contro l'influenza, anche per l'influenza suina, a un prezzo proprio low cost. Sappiamo che le aziende farmaceutiche di India e di Cina hanno anche grandi contenziosi con le aziende invece europee perché riescono a produrre a bassi costi, alcuni dicono anche magari non rispettando i brevetti internazionali. Comunque tant'è, questa farmaco è pronto, sarà messo sul mercato e naturalmente in casi di rischi di epidemia o vera e propria epidemia potrebbe essere insomma il modo per limitare se non altro il panico che abbiamo visto diffondersi così in fretta. E speriamo. Giulia Crivelli, a domani. A domani. 13:48. E oggi giornata dedicata al voto del disegno di legge sicurezza, con le parole del capo dello Stato Napolitano contro la xenofobia e poco fa anche la replica di Bossi che ha detto io ascolto la gente. Poi ci siamo occupati anche di notizie economiche, la protesta dei lavoratori Fiat a Termini Imerese per la paura della chiusura dello stabilimento Fiat. E oggi si riunisce il consiglio di amministrazione della RAI. Sul tavolo l'offerta commerciale di Sky, che però la RAI starebbe valutando di non accettare, insomma si rischia una rottura tra TV pubblica e satellite. Alleanze tra grandi gruppi televisivi, scontro tra le piattaforme, satellite terrestre e cavo, TV gratuita e TV a pagamento. Si svolge attorno a queste scelte strategiche il consiglio di amministrazione RAI di oggi. Sul piatto un'offerta di Sky per rinnovare il contratto per i canali di RaiSat a 50 milioni l'anno, più 75 milioni in 3 anni, acquistando film dalla Rai. Sky chiede inoltre che i canali Rai generalisti, Rai 1, Rai 2, Rai 3 e anche Rai 4, siano presenti sulla piattaforma satellitare. Se l'offerta sarà rifiutata, la Rai si avvierà a costruire una piattaforma satellitare alternativa a Sky. Si chiamerà TVSAT, una società già controllata al 95% del capitale da Rai e Mediaset, i due operatori dominanti della TV analogica. Dal 1 giugno nei banconi dei punti vendita di elettronica arrivano i decoder TVSAT che non ricevono Sky. Si apre uno scontro tra piattaforma nella quale a rimetterci rischiano di essere i cittadini che avranno tante offerte ma parziali, nessuna ricevibile con un solo decoder. A rimetterci saranno gli altri editori televisivi, soffocati da 3 grandi big che controllano sia i contenuti sia la piattaforma su cui vengono offerti. Con tanti complimenti alle autorità di controllo che hanno favorito tale soluzione. Marco Mele, GR24, Il Sole 24 Ore. Sono stato terrorizzato da queste persone. Come mai ora invece hai deciso quel momento in cui devi raccontare? Perché i tempi sono maturi. Mo sono passati 30 anni rotti. O sono morti, i Borsellini sono morti. La notte quando è morto Pasolini è il titolo di uno dei due documentari di Roberta Torre che verranno presentati oggi al Nuovo Aquila di Roma. È Pino Pelosi, condannato per l'omicidio, a raccontare la sua verità. Sentiamo la regista al microfono di Marta Cagnola. Ovviamente a me una cosa ha colpito di Pelosi, che nelle mie varie conversazioni con lui mi disse una frase, che era quella quando io gli chiedevo: ma perché quindi tu e Pasolini vi vedevate, cosa trovava in te, come mai ha insistito in questo rapporto, perché poi si è saputo che appunto non è stato solo uno il loro incontro, ma in qualche modo si conoscevano anche prima del delitto. E lui mi ha risposto: io credo che lui abbia visto in me quello che lo poteva uccidere. Io questa l'ho trovata un'affermazione molto profonda, detta da un uomo come il Pelosi, che è comunque un uomo rozzo e fondamentalmente ignorante, per cui da lì sono rimasta molto colpita e ho iniziato a capire, a sentire in qualche modo che qualcosa era rimasto dentro di lui di questo rapporto che aveva avuto con Pasolini. L'impressione umana di Pino Pelosi? Non l'ho mai considerato dal punto di vista umano, cioè in realtà è come se Pelosi per me sia stato un veicolo per arrivare a Pasolini. Il Pelosi di oggi, il Pelosi di allora, insomma, comunque diciamo è un uomo che ha prestato un corpo, no, a quello che è stato poi il suo destino, ma io non valuto lui come persona a sé, non è il Pelosi che mi interessa, quanto il rapporto che lui ha avuto con Pasolini. Io ho potuto respirare per Paolo Pasolini. Non è stato certo casuale affiancare Pasolini ai ragazzi del Tiburtino Terzo. Sono comunque dei ragazzi pieni di vita, appunto, pieni di una disperata vitalità, come quelli che conosceva anche Pasolini, ma fondamentalmente sono figli del loro tempo e quindi hanno anche dei riferimenti molto diversi da quelli che erano i ragazzi di allora delle borgate. Lui aveva in qualche modo profetizzato quello che sarebbe avvenuto, quello che sarebbe stato l'oggi, anche rispetto appunto a quella che è, diciamo, la globalizzazione, a quello che è il fatto di non avere più differenze, anche proprio nelle facce, nelle modalità, nel modo di vestirsi, nel modo di voler avere comunque dei modelli vincenti di un certo tipo legati a un abbigliamento piuttosto che a un modo di essere. E queste le notizie di oggi. Troppa retorica xenofoba, il monito del capo dello Stato Napolitano mentre la Camera approva il disegno di legge sicurezza. Berlusconi replica: non parla di noi. L'Italia consegna alla Libia 3 motovedette, da domani il pattugliamento congiunto. Operai in piazza a Termini Imerese, preoccupazione per gli stabilimenti Fiat. Cristiani e musulmani convivano nel reciproco rispetto, da Nazareth il Papa rinnova così l'appello alla pace. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large. Alessio Maurizi, Anna Migliorati in studio, al coordinamento Maria Piera Ceci, in regia Peter Bescapè. C'è Tempo di Sport in diretta dalla Fiera di Torino alle 14. Prima il nostro appuntamento consueto col lavoro, noi ci risentiamo domani a partire dalle 13. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.